La luce che illumina le genti. Leggo nella Bibbia, nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 28 a 32. Lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele». Affacciato alla finestra di casa mia, noto che tutti i negozi sono chiusi oggi. L'agitazione che ieri permeava l'aria è ormai un ricordo. Meno male, un po' di calma favorisce la riflessione. Per un attimo il mio pensiero vola più di 2000 anni fa, quando Gesù venne davvero nel mondo. Per la maggioranza delle persone quell'evento è passato inosservato e non furono i grandi teologi del suo tempo ad accorgersi della sua venuta. Ci fu però tutta una serie di personaggi che in qualche modo si accorsero che un avvenimento speciale era accaduto, persone semplici, ma timorose di Dio ed attente alle sue promesse. Uno di loro fu proprio un certo Simeone, di cui si parla in questo verso. Un uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava la consolazione di Israele, ovvero la manifestazione del Messia. L'unto promesso, il Signore gli aveva rivelato che non sarebbe morto prima di vedere la realizzazione della promessa, ovvero prima di vedere con i suoi occhi il Messia. Il Signore mantenne la promessa e gli diede l'opportunità di prendere in braccio Gesù. Egli si rese conto che quel bambino, che sarebbe poi cresciuto e diventato adulto, costituiva la salvezza di Dio, la gloria del popolo di Israele, il Messia promesso, ma anche la luce che avrebbe illuminato ogni uomo. Mentre altri vedevano solo un bimbo come tanti altri, Simeone comprendeva davvero la portata di ciò che stava accadendo. La luce era venuta nel mondo. Qual è il nostro atteggiamento nei confronti di Gesù? Ce ne ricordiamo solo in questi giorni perché il calendario e la tradizione lo impone? Quando pensiamo al mistero dell'incarnazione, quando pensiamo all'amore di Dio per noi, che si manifesta in maniera particolare con l'invio del Salvatore nel mondo, quanti di noi, come Simeone, sono davvero meravigliati e riconoscenti a Dio per questo? Gesù, oggi, non è più un bambino e non avremo la possibilità di prenderlo in braccio come ha fatto Simeone. Ma Dio ci ama e ci dona ancora oggi la possibilità di avere una relazione con Lui proprio attraverso l'opera di Gesù. La mia speranza è che molti di noi, come Simeone, possano dire di aver visto con i propri occhi la salvezza di Dio, perché l'hanno realizzata davvero nella propria vita. Tutte le feste di questo mondo non possono sostituire una relazione vera e profonda con il Salvatore del mondo, la luce che illumina le genti.